Buongiorno, potete accomodarvi. Che bello essere qui in famiglia. Vogliamo ringraziare il gruppo Lode, che bel momento di adorazione che abbiamo avuto. Gioioso, allegro, carico di verità che annunciamo. E qualcuno ha detto che lodare è pregare due volte, è una doppia preghiera. Ed è così, quando noi adoriamo preghiamo al doppio, perché così noi dichiariamo la vittoria di Cristo Gesù nelle nostre vite attraverso dei canti di vittoria che annunciano ciò che è vero e ciò che è stabile nella nostra vita. Abbiamo cantato che il suo regno verrà. Abbiamo anche sentito nelle ultime domeniche che il suo regno è già venuto, vero? È un po' un argomento che a volte suscita disorientamento, ma è proprio così, il regno di Dio è venuto in Cristo Gesù e verrà completamente al suo ritorno. L'abbiamo appreso questo concetto, quindi ovunque Gesù è presente, il suo regno è presente. Ogni volta che Gesù manifesta la sua autorità, libera, guarisce, salva, il suo regno è manifestato. Perché Gesù non è solo un bravo uomo, un buon profeta, un buon maestro, Gesù è un re. Gesù di fatto è il re dei re, è il re dei re, questo è quello che dice la parola di Dio. E noi vogliamo conoscere Gesù per quello che è realmente, non per quello che ci ha trasmesso la cultura nella quale viviamo, la religione. Noi vogliamo conoscere Gesù in persona, perché quando conosciamo Gesù in persona e conosciamo i suoi attributi, conosciamo la sua autorità, conosciamo quello che lui è capace di fare, quello che lui ha fatto veramente, quello che ha insegnato, noi abbiamo l'opportunità di sperimentare la pienezza del suo regno. E il regno di Dio, il regno di Gesù è un regno di pace, è un regno di gioia, vero? E questa è una cosa bella che leggiamo, perché è in Romani che c'è scritto che il regno di Dio è un regno di giustizia e di gioia. Per questo noi cantiamo canti allegri ed è per questo che ci piace sorridere, vero? Siamo gioiosi stamattina? Mi fate un bel sorriso? So che forse non avete lavato i denti, vi siete dimenticati, qualcuno è venuto scappando in realtà, però abbiamo motivo di essere gioiosi perché facciamo parte di un regno che è il regno della gioia. Amen. Amen. È bello vedere Nino sempre gioioso. C'è qualcun altro che è gioioso con lui? È una chiesa gioiosa la nostra? Che bello. Assicuriamoci sempre, anche la mattina che siamo un po' dormienti, assicuriamoci sempre di portare un'atmosfera di gioia con noi, perché il nostro regno è un regno di gioia. Questa chiesa è una chiesa che ama vivere la gioia del regno. Lo so che ci sono tante cose che non vanno, lo so che ci sono tante ragioni per la quale essere tristi, abbattuti, ma c'è una notizia, che è la notizia più bella, è la notizia più grande, la notizia che supera ogni altra notizia, ed è l'Evangelo di Cristo Gesù, ed è la buona notizia che noi abbiamo salvezza, grazia, liberazione, gioia, futuro eterno, futuro su questa terra, benedizioni in Cristo Gesù. Amen. La scorsa settimana abbiamo visto che Lazzaro, no, non era Lazzaro, era Zaccheo, anch'io mi devo svegliare stamattina. Zaccheo invita, o meglio, Gesù si autoinvita alla casa di Zaccheo. Gesù entra in casa di Zaccheo e poi non entra solo in casa sua, entra nel suo cuore. E perché entra nel cuore di Zaccheo, la vita di Zaccheo è trasformata completamente. Quando Gesù entra, lui cambia. Quando lui entra, lui cambia. Quando ti entra nel cuore, tu cambi. Non è una formalità religiosa. Non è un vestito che ti metti, non è una maschera che indossi di religiosità, di essere buoni, è un cambiamento che parte dal cuore, perché ti entra dentro, Gesù è nel nostro cuore. Abbiamo un piccolo bambino in mezzo a noi, credo che ha poco più di un anno, Noah, il figlio di Stefania e Saverio. E io vi invito tutti ad andare a questo bambino e a chiedergli: dov'è Gesù? Lui non sa parlare. Lui ancora non si sa esprimere a parole, però ti guarda con un sorriso, prende il suo dito e lo punta nel suo cuore. Ed è la cosa più bella, vi invito a farlo. Noah, dov'è Gesù? E lui punta, è nel mio cuore. Possiamo dirlo anche noi stamattina, Gesù è nel nostro cuore. Lui ha conquistato il nostro cuore, la nostra vita è cambiata per questo, amen? E Zaccheo è uscito da quell'incontro con Gesù e ha detto, no Gesù, non ho più ragione di osservarlo, inseguirlo, vederlo sopra un sicomoro, lui è entrato nel mio cuore, ha trasformato la mia vita. Se siamo qui è perché Gesù è entrato nel nostro cuore, amen? E noi vogliamo parlare stamattina per l'ultima volta, anche se la domenica prossima avremo la possibilità di ascoltare un riassunto e sarà straordinario perché non darò io questo riassunto, ma avremo 3 predicatori di eccezione la mattina e 3 la sera che ci faranno un riassunto di questa serie, un riassunto della serie che abbiamo trattato per diverse settimane, della cultura del regno. E stamattina io voglio parlarvi di un aspetto della cultura del regno che è il più grande, è il più importante, è dolcis in fundo, no? È la grazia. La cultura del regno di Dio è una cultura di grazia. Abbiamo qualcuno che si chiama Grazia in mezzo a noi? Non è il tuo regno, non stiamo parlando di grazia lei, ma stiamo parlando di un concetto che è bellissimo, a volte anche un po' intrigante e ve lo voglio spiegare al meglio. La grazia, la Bibbia ci parla di grazia, continuamente lo fa, non di grazia la moglie di Feluccio, ci parla della grazia. Ora, la grazia è un concetto che ha a che fare con il diritto, con la giurisprudenza, e quindi stamattina faremo insieme una lezione di giurisprudenza. Mi sono preparato sul diritto civile, il diritto penale, perché di fatto il termine grazia riporta a quella che è sostanzialmente una colpa. Non c'è grazia se non ci fosse una colpa, mi seguite? E non ci sarebbe colpa se non ci fosse legge. Siete ancora con me finora? La grazia sussiste perché c'è una colpa e non ci sarebbe colpa se non ci fosse legge. C'è una colpa perché c'è qualcuno che ha dato una legge e qualcun altro che ha fallito e ha mancato di vivere per quella legge. Che cos'è la legge? Di cosa parliamo quando leggiamo nella Bibbia così tante volte scritta la parola legge? Noi stiamo parlando dei comandamenti di Dio. Dio ha dato dei comandamenti e la legge che cosa fa? La legge definisce il giusto modo di vivere. La legge definisce il giusto modo di vivere, il modo perfetto di vivere. La legge Dio l'ha data al suo popolo affinché loro vivessero nella maniera giusta, in una maniera che onorava Dio, questo fa la legge, ti permette di vivere una vita onorando Dio, di vivere una vita che rispetta il prossimo. Ogni legge che noi leggiamo, molte di queste leggi hanno a che fare con le relazioni, quindi come ci relazioniamo agli altri. Non solo, la legge di Dio definisce il giusto modo di vivere che permette a noi di avere benedizione. Quindi rispondere pienamente alla legge ed essere perfettamente in linea con il comandamento di Dio significa onorare Dio, benedire il prossimo e portare benedizione in noi stessi. Qual è il problema? Qual è il problema e qual è la colpa? La colpa sta nel fatto che l'uomo non riesce ad adempiere la legge. L'uomo non riesce a seguire ciò che la legge indica di fare e fallisce puntualmente. Ed è questa la colpa che c'è su ciascuno di noi. Noi falliamo. Pensate ai 10 comandamenti. Non dire bugia. Falliamo tutti colpevoli. Non commettere adulterio, non idolatrare, non vivere l'idolatria. Noi potremmo andare avanti in tutto l'elenco e riconoscerci, se non in tutti i comandamenti come delle persone fallite, almeno in qualcuno. Il problema è che se tu fallisci in uno è come se fallissi in tutto. Ed è qui che subentra la pena. Quindi non è la colpa porta a una pena, non c'è colpa che non preveda poi una pena. E quindi la Bibbia ci parla di questa condizione di pena e Romani è un libro che vi invito a leggere per comprendere bene tutti questi concetti. E Romani esordisce, parte, questa lettera scritta dall'Apostolo Paolo comincia proprio nel dirci che noi siamo in una condizione di condanna, di pena. C'è una colpa che noi stiamo pagando e questa pena è pagata in quale maniera? Dio ci ha abbandonati. Noi siamo separati da Dio perché Dio è giusto e perfetto e Lui vuole che noi viviamo una vita giusta e perfetta, e in quanto Lui è giusto e perfetto non può avere comunione con chi è ingiusto e imperfetto, e quindi c'è una separazione tra Dio e gli uomini. È colpa di Dio? Non è colpa di Dio, è colpa dell'uomo, è colpa della scelta dell'uomo di seguire il maligno, il diavolo. È il primo ribelle nella storia, è il primo ad aver disubbidito a Dio, è il primo ad essersi ribellato, e noi ci siamo accodati a lui, e quindi di conseguenza c'è una pena, c'è una condanna. Ora, la bella notizia di stamattina è che c'è la grazia. La grazia di Dio è quella clemenza, è quella misericordia che copre le nostre colpe e perdona i nostri peccati. Quando parliamo di grazia, stiamo parlando sempre in termini giuridici. E se pensate all'elemento, allo strumento della grazia, è previsto nella Costituzione italiana. Il Presidente della Repubblica, facciamo ancora un po' di lezione di giurisprudenza, il Presidente della Repubblica ha facoltà di offrire grazia ad ogni condannato, anche a chi è condannato all'ergastolo. Oggi il Presidente della Repubblica si potrebbe alzare, svegliare e dire: io voglio far uscire fuori da una prigione un detenuto, e basta la sua parola e questo avviene. Questa è grazia. È il dare perdono completo e condonare completamente il debito della persona, facendolo uscire dalla prigione. Però questo tipo di grazia non è esattamente la grazia che Dio usa verso di noi. E voglio farvi comprendere, voglio permettervi stamattina di capire perché Gesù è morto. Perché c'è stata di mezzo la croce? Perché Gesù ha pagato con una morte feroce, una morte di tortura, una morte sanguinosa? Perché Gesù è morto su quella croce? Stamattina abbiamo l'occasione, vivremo la cena del Signore, mangeremo del pane, berremo del vino, che ci ricorda quello che Gesù ha fatto per noi. Vi siete mai chiesti perché Dio non ha potuto semplicemente perdonarci? Non ha potuto esercitare la sua grazia come il Presidente della Repubblica? Avrebbe potuto, no? Avrebbe potuto dire: ok, io perdono l'umanità, perché mandare suo figlio? O al massimo avrebbe potuto mandare suo figlio, si sarebbe potuto incarnare, perché questo è il figlio di Dio, è Dio incarnato in Cristo Gesù, per vivere con noi. Sarebbe stato comunque un bellissimo gesto. Dio con noi, ha mandato il suo figlio, lui è venuto, avrebbe potuto operare i miracoli, avrebbe potuto insegnare, avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto, eccetto che morire. Perché è morto Gesù? Ve la siete mai posta come domanda? Se scendessi ora e vi dessi il microfono, che risposta dareste a questa domanda? Perché Gesù è morto sulla croce? Perché Dio, che è padre, è un padre buono, ha permesso la sofferenza del suo figlio e di conseguenza ha sofferto lui stesso? Perché tutti i genitori lo sanno, quanto è più sofferente vedere il proprio figlio soffrire che non soffrire in prima persona. Quindi perché il padre ha mandato il suo figlio a soffrire, di conseguenza lui ha sofferto per qualcosa che poteva elargire nella sua misericordia e nella sua grazia senza che nessuno perdesse la vita? E qui entriamo in un concetto che è meraviglioso ed è un concetto che distingue il nostro Dio da ogni altro falso Dio di tante religioni. Il nostro Dio è un Dio di misericordia, il nostro Dio è un Dio di grazia, il nostro Dio è un Dio di amore, ma il nostro Dio è anche un Dio giusto, è un Dio di giustizia. La grazia che il Presidente della Repubblica elargisce è un atto che per certi versi è un'ingiustizia. Noi leggiamo nei tribunali italiani che la legge è uguale per tutto, ma ogni volta che il Presidente della Repubblica sprigiona qualcuno, sta violando quella definizione che la legge è uguale per tutti. Sta dicendo no, non vale per tutti. Quello che il Presidente della Repubblica fa nel suo atto di elargire grazia è prima di tutto dire che la legge è imperfetta. Mi seguite ancora? Sta dicendo la legge è imperfetta, quindi va perfezionata nel fatto che io intervenga di caso in caso e qualche volta Dio ha grazia. La legge di Dio non è imperfetta, non è mai imperfetta. E l'altra cosa che il Presidente della Repubblica fa ogni volta che esercita la sua grazia è dire che abbiamo cambiato idea sulla nostra condanna. Abbiamo cambiato idea sulla tua condizione, non sei meritevole di tutti questi anni, non sei meritevole di tutta questa condanna. Dio non dice questo. La legge di Dio è giusta, la legge di Dio è perfetta. Dio non ha cambiato idea in merito all'adulterio, all'idolatria, alla menzogna. Ciò che noi nel Vecchio Testamento leggiamo come condanne, come leggi che portavano a una condanna a morte, non è che Dio ha cambiato idea sulla legge. Una falsa predicazione della grazia, una imprecisa predicazione della grazia, ci porta a pensare che Dio abbia cambiato idea sulla sua legge. Ci porta a pensare, Dio non vede più la menzogna così grave. Dio non vede più l'adulterio così penoso, così. No, Dio ha lo stesso sentimento da sempre nei confronti del peccato. Ed è per questo che io credo che oggi noi abbiamo a disposizione non solo il Nuovo Testamento, ma il Vecchio Testamento. Posso invitarvi a leggere il Vecchio Testamento? Posso invitarvi a leggere tutte le leggi del Vecchio Testamento? Perché quando leggi le leggi del Vecchio Testamento, scusate il gioco di parole, non fai altro che comprendere il cuore di Dio nei confronti del peccato e la gravità del peccato. Gesù non ha cambiato neanche idea sulla nostra colpa. Non è che a un certo punto ha detto, sono stato un po' troppo duro con i miei figli. Un po' pesante questa mia accusa, condannati a morte, abbandonati ai loro peccati, destinati a un'eternità con Satana nel giudizio dell'inferno eterno, questa è la condanna, la pena che è su di noi. Dio non ha cambiato idea su questo, per questo Gesù è morto. Dio ha mandato il suo figlio, perché quella pena andava pagata, perché quella colpa qualcuno doveva pagarla e perché lui è così misericordioso e non vuole che la colpa ricada su di noi, perché lui è così misericordioso e pieno di amore che non vuole che noi rimaniamo separati da lui ha trovato una soluzione, questa soluzione ce l'aveva sin dall'inizio. E la soluzione è che qualcun altro pagasse al posto nostro, e quel qualcun altro è Cristo Gesù, e lui ha pagato il prezzo della morte, della tortura, dello spargimento di sangue che noi leggiamo nei Vangeli, affinché noi potessimo essere liberi dalla colpa, liberi dalla pena e potessimo godere di questa grazia che è molto diversa, è una grazia che è costata cara al nostro Padre. E io vorrei che noi comprendessimo questo. La grazia non è gratuita. La grazia di Dio non è stata gratuita per ciascuno di noi. Dio ha pagato il prezzo più caro per togliere la colpa che era su di me e su di te. Questo è amore, questa è misericordia e questa è anche giustizia. La legge di Dio rimane invariata, ma la legge non ha forza di portarci trasformazione. La legge di Dio ci permette di comprendere qual è la nostra mancanza. In Romani 3, versetto 20, c'è scritto che la legge ci dà conoscenza del nostro peccato. ci dà conoscenza di quanto siamo corrotti, di quanto siamo sbagliati. E Gesù aggrava questa condizione dicendo: voi avete letto nella legge, no? Non commettere adulterio. Io vi dico che se solo immaginate e nei vostri pensieri desiderate una donna nel vostro cuore, voi state commettendo adulterio. E poi aggiunge: se il tuo braccio ti porta a peccare, taglialo. Se la tua gamba ti porta a peccare, tagliala. Se il tuo occhio ti porta a peccare, cavalo via da te. Perché? Perché la gravità del peccato è tale e rimane incondizionata. La posizione che Dio ha nei confronti del peccato è di odio. Dio odia il peccato. Però Gesù diventa la soluzione. Non siamo noi che dobbiamo tagliarci quel braccio, non siamo noi che dobbiamo amputarci quella gamba, perché Lui si è lasciato trafiggere le braccia e i piedi. Non siamo noi che dobbiamo cavarci gli occhi, è Lui che si è lasciato torturare al posto nostro. E in virtù di questo sacrificio, io e tu abbiamo accesso alla presenza di Dio. E ogni volta che guardiamo al peccato, non possiamo guardarlo con superficialità. E non possiamo giustificarci nella grazia, nel pensare che non c'è un danno nel peccato, ma comprendere che la grazia ha la potenza di trasformarci, perché Gesù non è solo morto, ma Lui è risorto, ha vinto la morte e con questo atto soprannaturale ci ha dato la possibilità di accedere non solo al perdono di Dio, ma anche alla possibilità di essere trasformati da Dio. Questa grazia non è solo l'opportunità di uscire dalla prigionia della colpa, del peccato, della distanza da Dio. Questa grazia è potente da trasformare i nostri cuori, le nostre vite e permetterci di assomigliare a Cristo Gesù. Non è meraviglioso? Tu non sei più schiavo del peccato, non sei più condannato al peccato, tu non sei nella morsa del peccato, perché ora sei libero. Gesù ha pagato per te e Gesù ora, vivo, forte, presente, vivo in te, ti permette di vivere una vita trasformata che va di gloria in gloria, dove tu puoi ambire a essere santo, santificato in Lui, cambiato di volta in volta. E ogni qualvolta ti confronti con il peccato, hai la possibilità non solo di chiedere perdono, ma di chiedere liberazione e trasformazione affinché tu non commetta di nuovo quel peccato. Amen. Questa è grazia. Tutto questo è un'introduzione al mio messaggio. Siamo solo all'inizio, al preambolo, perché io voglio parlarvi della cultura di grazia. Che cos'è la cultura della grazia? Ora, noi viviamo in questa condizione, la Chiesa, i figli di Dio vivono in questa condizione dove hanno accesso diretto al Padre in virtù di Cristo Gesù. È per grazia che siamo salvati, è per grazia che abbiamo comunione con Lui, è per grazia che noi possiamo pregare a Lui e Lui ci risponde, è per grazia che Lui ascolta le nostre richieste, è per grazia che tu puoi vivere per Lui, è tutto per grazia, non è per merito di nessuno, è solo grazia. E in questa grazia noi abbiamo l'opportunità di esercitare quello che Dio ci invita a fare attraverso una storia che leggiamo insieme in Matteo al capitolo 18. La vogliamo leggere insieme? Siete pronti per una storia che Gesù racconta? È una storia che racconta dopo che Pietro va da lui e dice: ma quante volte dobbiamo perdonare? Quante volte? Dici quante volte? Diamoci un numero, diamoci un limite, no? Perché a volte io ce la posso fare fino a 7. Io fino a 7, dice Pietro, ce la posso fare. Dimmi che sono 7 le volte che devo perdonare. Quanti sono disposti a perdonare 7 volte? Neanche 7 volte. Ridimensioniamo, peggio di Pietro siamo noi. 2 volte? 3 volte? 5 volte? Ora Gesù dice a questa domanda, dice: 7 volte devo perdonare? Dice: no, io ti dico 70 volte 7. E Pietro si è cominciato a fare i calcoli. Secondo me non era molto bravo in matematica, per questo Gesù l'ha detto, no? Perché l'ha intrippato, in quel momento ha cominciato a fare tutti i calcoli possibili e non si è ritrovato. 70 volte 7 significa che Gesù dice: voi dovete perdonare sempre. Leggiamo questa storia insieme, che viene subito dopo la risposta che Gesù dà a Pietro. Perciò il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Questi 10.000 talenti, non entriamo nel merito, ma è un debito stratosferico. Il debito è il sinonimo di peccato, che quando parliamo di colpa stiamo parlando di debito. Nella Bibbia ci viene presentato sempre un debito. Se pensate al Padre nostro, no? Quando Gesù insegna a pregare, dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non sta parlando di una questione economica, sta parlando dei peccati, delle colpe. E qui dice, quest'uomo aveva 10.000 talenti di debito. 10.000 talenti di debito è il debito che una nazione può avere. Un privato non può averla. Sono migliaia di anni di lavoro. Se andate a fare un calcolo è straordinario quello che e infatti io credo che quando Gesù l'ha raccontata questa storia alle persone a questo dire, 10.000 talenti, si sono guardati in faccia, hanno riso, secondo me Gesù aveva un buon senso dell'umore, hanno scherzato fra di loro, e chi può essere mai una persona che ha 10.000 talenti di debito? E poi dice, e poi che quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Questa è la condizione di condanna, questa è la condizione nella quale l'umanità oggi si trova, dove tutto è venduto al nemico, dove tutto è venduto, le nostre vite sono imprigionate, siamo schiavi di colui che ci ha paralizzati, che è il nostro nemico nel male, nel peccato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo «Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto». Bugia, impossibile. Questo è quello che l'uomo religioso fa. Dice «Signore, io mi comporterò bene. Perdona i miei peccati di oggi perché da domani io sarò una persona perfetta». E quando l'uomo religioso si dà da fare per cercare di rispondere a tutti i comandamenti di Dio, si trova fallito nel comando di superbia, di arroganza, perché anche in quello c'è un peccato e quindi non c'è risposta nella legge. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo «Abbi pazienza con me, ti pagherò tutto». E il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. E qui abbiamo capito di che cosa Gesù sta parlando. È la sua morte e resurrezione che condona il nostro debito. Ma quel servo uscito, ascoltate ora, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Ora, 100 denari è una cifra decisamente minore ai 10.000 talenti. Si tratta dello stipendio di un paio di mesi dell'uomo dell'epoca. E noi leggiamo che afferratolo lo strangolava dicendo «Paga quello che devi». Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore, e qui sta parlando del re, del regno di Dio, allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te». E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Gesù racconta questa storia per giungere a questa conclusione. E la conclusione della storia, il sunto della storia, è che condonati di un debito, noi siamo chiamati a condonare debiti. Il sunto della storia è che perché tanta grazia è stata elargita nei tuoi confronti, Dio si aspetta, il tuo Signore si aspetta che tu elargisci grazia nei confronti degli altri. Il sunto di questo racconto è perché sei stato perdonato, devi perdonare. E ora capitemi bene, fratelli e sorelle, noi abbiamo un re che è Cristo Gesù e lui è venuto con uno scopo ben specifico su questa terra. Lo scopo della venuta di Gesù è perdonare l'umanità dei loro peccati e tutti coloro che si ravvedono dei loro peccati attraverso lo spargimento del suo sangue. È quello che noi leggiamo proprio in merito alla cena del Signore. Gesù dice: bevete di questo calice, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Gesù è venuto su questa terra con una missione principale. La più importante missione di Gesù è stata spargere il suo sangue per il perdono nostro, dei nostri peccati. Capite bene che se abbiamo un re che ha avuto una missione così importante e il suo scopo di vita è stato principalmente il perdono, la cosa che più si aspetta da noi, suoi figli, perdonati, lavati di peccato, è che noi perdoniamo. Capite che questa è una cosa alla quale Dio ci tiene particolarmente, non è un dettaglio, non è un optional. Ed è per questo che Gesù, quando ci insegna a pregare nel Padre nostro, che è una preghiera che ci viene presentata come una preghiera che lascia intendere che va fatta quotidianamente, no? Perché Gesù dice a un certo punto: dacci oggi il nostro pane necessario. In quella preghiera che è quotidiana, Gesù dice: non dimenticarti di pregare che i tuoi peccati siano perdonati come tu perdoni ai tuoi debitori. Ogni giorno quando noi preghiamo non possiamo presentare a Dio solo le nostre richieste, è solo la nostra confessione per i nostri peccati. Quando preghiamo a Gesù ogni giorno dobbiamo pensare e riflettere: a chi devo perdonare? A chi devo elargire grazia? E il perdono è una cosa difficile, anzi diciamola per quella che è: perdonare è impossibile. Perdonare è una cosa impossibile per me. Perdonare è una cosa impossibile per te. Gli uomini si sforzano di perdonare. Tutti noi credenti che conosciamo questa storia ci sforziamo di perdonare. Ma è impossibile senza l'intervento divino. Ed è per questo che va vissuto in preghiera. Perché quando tu preghi stai cercando Dio e stai cercando la sua potenza, il suo intervento in te. E quando preghi tu inviti Gesù nel tuo cuore e permetti a lui di guarire e permetti a lui di intervenire affinché ti dia una forza soprannaturale, non naturale, una forza soprannaturale divina, una forza che è miracolosa di perdonare gli altri di tutti i loro torti. Vedete, il regno di Dio è un regno che presenta un flusso. Il regno di Dio avanza per questo flusso. Amati, amiamo. Generosità ci è stata data e generosità esercitiamo. Parole costruttive, di edificazione, di vita ci vengono dette dal Padre, noi diamo parole di edificazione, di vita ad altri. Perdono ci è stato dato, perdono offriamo. Quando? Sempre. La grazia viene con un prezzo. Il perdono richiede un sacrificio e un prezzo da pagare. Ogni qualvolta tu sei davanti a un torto che qualcuno ti fa, per perdonarlo devi pagare un prezzo. Dio, per perdonare i nostri peccati, ha pagato un prezzo, il prezzo più alto. Tu, nel perdonare il tuo prossimo, il tuo vicino, il tuo fratello, la tua sorella, tuo marito, tua moglie, c'è un prezzo che devi pagare. È il prezzo di far cadere i tuoi diritti. È il prezzo che paghi disposto a non afferrare quella che è la giustizia di quello che merito, di come devo essere trattato, di come devono andare le cose. E elargire grazia significa essere disposti a pagare un prezzo. È un prezzo amaro, è un prezzo pesante. Però io voglio farvi notare che questa storia ci insegna due cose. Ci insegna che perdonare ha un prezzo, al prezzo di 100 denari. 100 denari che non ti vengono restituiti, 100 denari che non ti vengono dati neanche in una piccola parte, 100 denari che tu perdi. Ma quello che ci insegna questa storia è che molto spesso noi abbiamo difficoltà a comprendere e a vedere. E invece Gesù vuole che sia molto chiaro per noi con la conclusione della parabola che narra, è che quando tu non sei disposto a pagare questo prezzo, c'è un prezzo più grande che poi ti ritrovi a pagare. È un po' come andare a Bari, no? Nel centro, parcheggi la tua macchina, ti rendi conto che c'è da pagare un prezzo. E in alcune zone è di 2 euro all'ora. Dici, ma il mio servizio è di 10 minuti, ma devo pagare. Dici, vabbè, dai, non pago. E poi torni e trovi un bel foglio sulla tua macchina. E quei 2 euro sono ora diventati 30, 40, fino a 80 euro, 60 euro, suggerisce qualcuno. Ed è così la mancanza di perdono. E io vorrei che noi comprendessimo che ogni volta che la Bibbia parla di perdono, di mancanza di perdono, c'è un prezzo diabolico che viene pagato. In Efesini al capitolo 4 ci viene presentata la mancanza di perdono come un lasciar spazio al diavolo. Cioè tu sei in un bivio e puoi scegliere o di far spazio a Dio perdonando e quindi avendo grazia, elargendo grazia, oppure prendere l'altra strada e far spazio al diavolo. È un'opera demoniaca quella che avviene nella tua vita. Qui Gesù la presenta con gli aguzzini, i carcerieri. Il carceriere è Satana. E le nostre vite vivono tanta miseria, tante sciagure, tanta rovina, perché siamo sotto l'opera demoniaca quando non perdoniamo. Gesù arriva a dire che se tu non perdoni agli altri, Dio stesso non perdona a te. Quindi si blocca questo flusso. Vedete, il regno di Dio è un flusso. Lui ti perdona, tu perdoni agli altri, ma nel momento in cui blocchi il flusso, ti ritrovi attanagliato in quella che è la morsa satanica dell'amarezza. In Atti c'è la descrizione di un uomo, Simone, che l'apostolo Paolo descrive come pieno di iniquità e di amarezza. La Bibbia in altre parti parla di sradicare ogni radice di amarezza. In Efesini 4, che ho citato prima, c'è scritto non lasciate spazio all'amarezza. Che cos'è l'amarezza? È proprio quell'accumulo, quel bagaglio di colpe, di torti che fanno nascere in te qualcosa che è diabolico, che non ti permette di vivere bene le relazioni, che non ti permette di vivere bene nella benedizione del regno. Che cos'è vivere la cultura della grazia? Vivere quotidianamente una relazione con Dio dove afferri ogni dono, non per meriti, non perché te li sei conquistati, ma perché Dio ti ama ed è misericordioso e ti perdona in Cristo Gesù e ti dà un destino di vita, e poi quotidianamente scegli di amare gli altri, offrire grazia ad ogni torto, in ogni occasione, senza accumulare, senza creare bagagli, senza permettere che nessuna radice di amarezza ci sia. Ed è bello questo termine. Non so quanti hanno un giardino, però quando c'è dell'erbaccia e c'è quella radice, tu puoi estrapolare, strappare l'erba, ma se non sradichi la radice, quell'erba ricrescerà. La mancanza di perdono è un'erba che devasta. La mancanza di perdono è un cancro che cresce e che, a meno che non sradichi in una maniera radicale, totale, si ripresenta e porta morte, produce morte in te e tutto attorno a te. Stamattina, non domani, stamattina, in questo momento, abbiamo la possibilità di scegliere di perdonare. E questo significa che non ti fermi a dire devo perdonare, stringi i pugni, devo perdonare, ti rigidisci, dici devo fare il meglio di me stesso per perdonare, devo perdonare. No, vai alla fonte di ogni perdono e dici a Dio, dici a Gesù, al tuo re, tu che sei stato capace di perdonare, insegnami a perdonare. Insegnami a dare grazia a coloro che hanno fatto dei torti nei miei confronti. Sono convinto che questa mattina ti sono venuti in mente nomi e persone nella tua vita. Forse un collega di lavoro, forse un vicino di casa, forse un tuo familiare, forse il tuo datore di lavoro, forse una qualsiasi persona che ha fatto un danno nei tuoi confronti e sta ripresentando offese nella tua vita. Gesù ti dice: sii libero, perdona, vieni a me, prega e aiutami e permettimi di aiutarti a perdonare. E Dio lo farà. Il test del perdono è la benedizione. Gesù dice: benedite i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. A coloro che vi colpiscono su una guancia, porgete anche l'altra, chi vi ruba il mantello, date anche la tunica. Tutte queste parole hanno a che fare con la cultura del regno. E quando noi viviamo questo, il regno avanza. Voglio concludere con la storia che conoscete tutti di Stefano, il primo martire della fede. Dopo Gesù, il primo cristiano che muore, lapidato, è Stefano. E Stefano, la lapidazione sappiamo che cos'è, viene colpito ripetutamente da pietre, di persone religiose, e mentre lui viene colpito e guarda questa visione di Dio, del regno di Dio, di dove sta per andare, lui pronuncia le stesse identiche parole che Gesù ha pronunciato sulla croce e dice: Padre, perdona loro, non imputare a loro questa colpa. E chi è che ha sentito queste parole? Chi è che ha assistito a questa attitudine straordinaria, sconvolgente, senza senso, fuori da ogni logica? Saulo, un terrorista, un persecutore di Cristo e della Chiesa, che era lì e che approvava, anzi mandava persone a fare queste cose, a lapidare, uccidere. Che cosa succede di Saulo? Lui viene a conversione, conosce quel Gesù, conosce quella grazia, scrive la lettera ai Romani, scrive la lettera ai Galati, che sono delle fonti meravigliose per noi per comprendere questa grazia. E io credo che parte di quello che lui ha compreso deriva da quell'esperienza che ha visto in Stefano. Noi oggi siamo chiamati ad essere quei martiri, disposti a incassare colpi, a prendere pietre e a offrire perdono, perché in questa maniera onoriamo Dio, permettiamo a Lui di intervenire nella nostra vita. Fratelli e sorelle, giustizia verrà fatta e noi ci affidiamo non più alla nostra giustizia, non ci affidiamo alla giustizia degli altri facendo squadra con altri. Che quando sei ferito vai da qualcun altro per sfogarti e quello che fai è fondamentalmente cercare qualcuno che viene dalla tua parte per fare squadra con te e combattere la battaglia. Se qualcuno viene da te, scegli di non essere schierato da nessuna parte. C'è un'unica squadra nella quale noi ci schieriamo ed è quella di Gesù. Ed è la squadra dove noi ci diciamo: perdona, offri grazia, porgi l'altra guancia, sono con te, fratello, sorella, comprendo quello che vivi, capisco la disperazione, capisco il dolore, capisco tutto quello che stai attraversando, ma non ti sarei di alcun aiuto se mi schierassi con te. Ti sono veramente di aiuto se insieme ci schieriamo con Gesù e perdoniamo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chiudere i nostri occhi, fare nostre queste parole, è una decisione, lo so che non è una decisione facile, ma Dio ti ama ed è per questo che ti invita a perdonare, perché nel perdono c'è maggiore benedizione, grazia, c'è maggiore ricchezza, c'è vittoria piena. Se questa mattina dici io voglio arrendermi e io voglio entrare a far parte della squadra di Gesù ed essere promotore del perdono e vivere il perdono e insegnare il perdono e promuovere il regno e la cultura della grazia, allora ti chiedo, dovunque ti trovi, di chiudere i tuoi occhi e alzare le tue mani in segno di arresa. Quale bellissimo gesto abbiamo l'opportunità di fare alla presenza di Dio questa mattina. E Lui c'è, Lui è qui, Lui ti vede, Lui ti ama e Lui ti perdona e Lui condona ogni tuo debito, perché è stato tutto pagato mediante Cristo Gesù. È proprio per questo che, Padre, io voglio pregarti affinché chiunque questa mattina non sa che ha possibilità di perdono, pieno perdono in Cristo Gesù, io ti prego affinché questa mattina chiunque è ancora separato dal tuo amore possa ricevere quell'abbraccio, quell'accoglienza che tu offri per grazia, in quanto ogni cosa è stata pagata nella morte di Cristo Gesù. Se c'è qualcuno che è distante perché i suoi peccati macchiano la propria coscienza e si sente indegno da venire da te, io ti prego che in questo momento tu possa riconciliare i tuoi figli a te, nella consapevolezza del sangue che è stato versato per la nostra grazia e per il nostro perdono. E insieme, con le mani alzate, Gesù, noi ti diciamo che ci arrendiamo alla tua autorità, al tuo dominio, alla tua volontà. Gesù, tu ci hai dato esempio di come vivere su questa terra. Ed è un esempio che è così lontano da ogni logica umana, è così lontana da ogni tendenza della nostra carne. Noi riconosciamo la legge del peccato dentro di noi che domina quando vogliamo i nostri diritti, la nostra giustizia, e siamo impossibilitati a perdonare, a condonare debiti agli altri. Ma questa mattina, Gesù, noi veniamo alla tua dolce presenza per dirti: aiutaci a perdonare, aiutaci a perdonare, aiutaci a lasciare andare i torti. Aiutaci ad essere quello Stefano che si lascia colpire e nel dolore, nelle ferite, nel vedersi rubata via la vita su questa terra, decide di perdonare, decide di amare in una maniera e in una misura straordinaria. Io prego, Padre, che la tua Chiesa, noi, possiamo essere tutti schierati con te, Cristo Gesù, dalla parte di coloro che scelgono di porgere l'altra guancia, dare la tunica a chi ci ruba il mantello. Gesù, noi vogliamo essere il tuo popolo che benedice chi ci perseguita, che non maledice i nostri nemici, che non dichiara male, non augura male a coloro che ci affliggono dolori, ma che li benedice, perché vive in una dimensione completamente diversa, la dimensione del regno tuo. Gesù, grazie perché tu hai permesso l'accesso a questa grazia ulteriore. Non solo la grazia di essere perdonati, non solo la grazia di avere una relazione con te, ma la grazia di vivere come te, la grazia di poter offrire agli altri quello che tu hai offerto a noi, la grazia di poter camminare sconvolgendo il mondo che ci circonda, perché viviamo secondo regole completamente diverse. Gesù, che questo mondo si accorga della nostra presenza, si accorga di quanto siamo disposti a pagare sempre e a perdonare in ogni condizione e davanti ad ogni torto. Padre, io so che in questa stanza ci sono ferite che fanno male, colpe che hanno provocato degli squarci nell'anima, io voglio pregare, Padre, affinché tu solo che puoi guarire le nostre ferite, tu possa dare ai miei fratelli e alle mie sorelle quella guarigione in questo momento. Pare che non possano essere imbrogliati dal diavolo che li porta a credere che la guarigione nella vendetta, che la guarigione nel prendere le armi della giustizia, che la guarigione nella rabbia, che la guarigione nel farsi sentire, nello sbattere il pugno, nel chiudere la porta. Io prego nel nome di Cristo Gesù affinché tu possa stamattina essere il vero guaritore di ogni ferita nostra nell'anima, per ogni torto, per ogni colpa che altri hanno fatto nei nostri confronti. Alleluia. Alleluia. Vogliamo stare qualche istante ancora alla presenza di Dio. Parla tu ora con Gesù, nel tuo cuore puoi farlo e Lui ti ascolta. Parla tu a Gesù, digli quello che desideri, alla luce di questo messaggio, di questo insegnamento. Confidati a Lui, arrendi il tuo cuore. Facciamo insieme qualche istante.